Buonasera a tutti. Io appunto mi riaggancio a Massimo, e nel senso che ha ben illustrato Massimo come l'adolescenza sia un processo e in questo processo assume centralità il fatto che l'adolescente diventa capace di guardare se stesso e guardare il mondo in maniera diversa e pertanto comincia a formulare proprio delle teorie su di sé e sul mondo. In questo primo intervento entreremo proprio più sulla percezione di sé, mentre nel secondo illustreremo proprio di più invece la percezione di sé in relazione nei vari contesti. Prima di entrare nei vari costrutti, vi dico solo brevissimamente una cosa sulla ricerca. Due numeri: allora, sono stati coinvolti 400 studenti di 28 classi quarte, quindi l'età è tra i 17 e i 18 anni, quindi il 90% del campione si colloca lì. Abbastanza bilanciato tra maschi e femmine, e ha coinvolto 11 istituti secondari, quindi dai professionali licei, quindi è stato proprio un lavoro certosino per andare a bilanciare il più possibile il campione, quindi essere in qualche maniera il più possibile rappresentativi della popolazione studentesca di Brescia. Innanzitutto partiamo con la soddisfazione generale nella vita. Come potete vedere da questa scala, se contate più o meno, sommate le varie colonne, circa il 72-73% dei ragazzi hanno una percezione sufficiente o buona o anche ottima della propria vita. Quindi, di converso, il 18% ha invece una percezione che va appunto insufficiente rispetto alla propria vita. E andando ad analizzare i dati, emerge, come diceva Massimo, comincia a emergere la questione più legata al genere. Già da questo dato vediamo che in maniera statisticamente significativa i ragazzi hanno una percezione di maggior soddisfazione della vita. Una cosa sui dati: qua magari vediamo che è uno scostamento di pochi decimali. Chiaramente la statistica è formulata su più parametri, quindi magari alcuni punti decimali rispetto alla distribuzione dei dati, eccetera, possono essere significativi e di converso magari altri che si sembrano ad occhio più diversi in realtà non lo sono. Quindi tutti i dati che presento quando faccio queste distinzioni sono stati statisticamente significativi. Quindi qua comincia ad emergere una differenza di genere. E per esempio rispetto al tema dell'ansia, questo, quindi alla percezione generale dell'ansia, c'è uno scostamento tra maschi e femmine. Anche qui, dove le ragazze in qualche modo hanno dei punteggi maggiori. L'ansia ha cosa, come potremmo definirla? In qualche modo è uno stato di attivazione che ha componenti emotive, un'attivazione anche corporea e cognitiva, che ha a che fare in qualche modo con la percezione del pericolo. Quindi non è tanto legata alla realtà di questo pericolo, ma proprio in quanto io mi attivo in risposta a quello che percepisco. Se andiamo ad analizzare i vari item, qua sono piccoli purtroppo, però vi racconto, i punteggi maggiori, gli scostamenti maggiori sono associati proprio al sentirsi oggetto di sguardo. Quindi se vedete per esempio questa colonna, è proprio il svolgere attività mentre sono osservato dagli altri. Un altro item molto più significativo è quello di entrare in una stanza dove ci sono già delle persone, quindi entro e attiro l'attenzione su di me, piuttosto che esporre un discorso in pubblico. Okay? Quindi sono tutte situazioni, quelle che richiamano maggiore ansia, soprattutto nei confronti per quanto riguarda le ragazze, che hanno a che fare con gli altri, l'essere in presenza di altri, il sentirsi osservati. E più in particolare, siamo andati anche ad analizzare l'ansia nel contesto scolastico e qui la forbice aumenta, quindi è sempre significativa a sfavore delle ragazze e in qualche modo qui cosa succede? Si aggiunge l'elemento della valutazione. La scuola è anche il luogo dove vengo valutato per tutta una serie di motivi e andando a vedere gli item, oltre al discorso dello sguardo, emerge proprio questo sentirsi oggetto di valutazione che mette molta pressione. E davvero la questione femminile emerge in maniera preponderante, nel senso che se andiamo a vedere anche in generale gli indicatori di malessere psicologico, oltre all'ansia, anche rispetto al sentirsi giù, queste risposte sono quante volte si è sentito spesso in questa maniera, quindi quante volte si è sentito spesso giù, giù di morale, quante volte si è sentito irritabile. Quindi, per esempio, abbiamo il 58% delle ragazze che dicono di sentirsi spesso, più volte a settimana, irritabili. Il 50% che dice di sentirsi giù di morale, rispetto all'ansia che abbiamo già detto, e quindi in qualche modo davvero emerge una fragilità maggiore da questo punto di vista. Rispetto poi alla suscettibilità a vergogna, quindi allo sguardo su di me, come mi sento, anche qui, ai noi, emerge questa differenza. Qui presentiamo due sottoscale, una che ha più che fare proprio con l'errore, quindi autobiasimo per l'errore, l'altra invece è l'angoscia di fronte a persone significative. E appunto il sentirsi di fronte a una persona per me significativa, che può essere il familiare, un adulto di riferimento, piuttosto che un amico, genera in qualche modo vergogna, che, come diceva Massimo, è legata più proprio a un senso al chi sono io più che a quello che faccio. E per questo anche in qualche modo è una dimensione più basilare, più proprio che ha a che fare con la costruzione dell'identità, non tanto con quello che ho fatto di giusto o di sbagliato. Al contrario, invece, se guardiamo la percezione di competenza, quindi quanto mi sento competente, e la fiducia in me stesso, viene ribaltata la cosa. Quindi, in qualche modo, i ragazzi si sentono più competenti e sentono maggiore fiducia in se stessi. Rispetto a questo, un'ipotesi, appunto, non può esserci solo una questione biologica, chiaramente. C'è proprio tutta una questione legata alla costruzione del ruolo, che ha a che fare sia con come io, con i messaggi che la società in generale mi lancia, ma proprio rispetto anche alle richieste che mi fa il contesto, e come mi sento visto dal contesto, che non vuol dire come oggettivamente gli altri agiscono nei miei confronti, ma proprio la mia percezione. E anche qui emerge che arrivano messaggi differenti, ovvero i maschi si sentono maggiormente valorizzati e sostenuti dal contesto sociale. Quindi già un pezzo di una risposta rispetto al come mai c'è questa differenza di genere da questi dati emerge. E chiaramente la questione è ampia, però sicuramente possiamo dire che probabilmente ai ragazzi vengono concesse più possibilità di sbagliare, per esempio. Gli si chiede di meno di essere perfetti, tra virgolette. Non so come dire, anche nello stereotipo, se ci immaginiamo, non lo so, poi ciascuno avrà le proprie differenze, però probabilmente il fatto che sia una ragazza sia brava, diligente, eccetera, è più, in qualche modo, atteso, è più anticipato dal contesto, e le ragazze questa anticipazione la sentono su di te. E questo quindi un po' in base alla percezione di sé. Andando invece su dei comportamenti anche a rischio, vediamo che appunto in generale innanzitutto ci sono dei dati che si confermano. Come vedete nella terza colonna, l'80% non ha mai avuto comportamenti autolesivi su di sé. Questo però di converso ci dice che il 20%, quindi un ragazzo su 5, almeno una volta nella vita, ha provato a dare una risposta a un qualcosa, che non sappiamo, però ha provato ha agito come tentata soluzione, o dei tagli o delle bruciature. Qui vedete che appunto i tagli sono l'agito più frequente, e ci sono alcuni ragazzi poi che, sommando le due percentuali, che hanno provato sia in un modo che nell'altro. Dove c'è un rischio, per fortuna ci sono anche dei fattori di protezione, e vediamo che appunto le prime colonne, quelle con tratteggiate, diciamo, sono qua si parla di percezione del sostegno da parte dell'ambiente, e o anche altri motivi per cui una persona desiste quando quando ha in mente di mettere in atto questo tipo di comportamenti. Che cosa potrebbe aiutarmi a desistere da questo? E come si vede dalle colonne più chiare, chi ha una maggiore percezione di supporto da parte dei familiari ed amici mette meno in atto questo tipo di comportamenti. Quindi ancora una volta emerge l'importanza del contesto relazionale e il sentirsi supportato. Un altro tipo di risposta che la nostra società le altre possibili risposte che la nostra società mette in campo di fronte a questo, al malessere, alla fragilità, è anche appunto l'assunzione di psicofarmaci, e dove vediamo che il 70%, quindi la prima colonna, non è mai assunti. Però vuol dire che, ancora una volta, di converso, 3 ragazzi su 10, almeno una volta nella vita, hanno assunto dei psicofarmaci. Qui non viene specificato che tipo di psicofarmaci, però possiamo immaginarci da ricerche precedenti che soprattutto sono quindi farmaci legati, sono benzodiazepine, quindi in qualche modo dei sedativi, e qui viene in mente quindi tutto il discorso dell'ansia, della vergogna, eccetera. E un dato che secondo me è rilevante è anche il 14% di persone che l'hanno fatto 1 o 2 volte, quindi non sono terapie magari seguite da uno specialista, eccetera, ma possiamo ipotizzare che qualcuno di fronte a un qualche tipo di bisogno aveva disponibilità di questo tipo di farmaci e ha provato a utilizzarli. Okay? Un altro aspetto, per esempio, dato che Seidecker lavora molto anche sul tema delle sostanze, diciamo che in generale possiamo dire che in generale i dati rispetto alle sostanze si confermano rispetto agli ultimi anni, forse con un leggero calo rispetto al consumo di cocaina. Quello che secondo noi è interessante però è che dagli sportelli d'ascolto e dai vari contesti di intervento sta cambiando il valore d'uso, nel senso che oltre all'utilizzo ricreativo sempre di più assistiamo a ragazzi che raccontano di utilizzare, di ricercare per esempio in questo caso la cannabis, in qualche modo di utilizzarla come un regolatore emotivo, se pensiamo al tema dell'ansia, quindi appunto per ricercando l'effetto in maniera esplicita l'effetto sedativo. E quindi anche qui è uno dei possibili modi per cui un adolescente potrebbe cercare di gestire il proprio stress, il proprio senso di vergogna, eccetera. E se vediamo, c'è anche qui un utilizzo più massiccio da parte dei ragazzi, dove se guardiamo l'ultima colonnina, l'11%, quindi un ragazzo su 10, dichiara di aver usato cannabis tra le 20 e le 40 volte, quindi più di 20 volte, quasi praticamente tutti i giorni. Okay? Quindi qua potremmo andare a ricercare quella fetta di uso per autoregolazione emotiva di cui parlavamo prima.